questione di giorni. La cordata italiana per comprare all'Italia c'è e verrà fuori a breve. L'annuncio è ancora una volta di Silvio Berlusconi, che smentisce la presenza dei suoi figli tra gli imprenditori interessati. Per il leader del Popolo della Libertà è questa la soluzione migliore, mentre su Air France aggiunge: dopo che io ho lanciato l'appello agli imprenditori italiani, avevano presentato delle condizioni che abbiamo ritenuto inaccettabili, adesso si dichiarano disposti a trattare su queste condizioni. L'annuncio piace alla Lega, che chiede di aspettare la cordata tricolore. Critico il Partito Democratico. Per Piero Fassino, se ci sono imprenditori interessati, si facciano avanti perché il tempo stringe. Mentre per Massimo Brutti l'ipotesi non sta né in cielo né in terra. Dall'UDC Casini accusa sia la destra che la sinistra di non aver fatto nulla per il problema. Capitolo Malpensa. Il candidato della sinistra arcobaleno Bertinotti considera ragionevole una moratoria, mentre il presidente della SEA, che gestisce gli aeroporti milanesi, si dice pronto a valutare una proposta di transazione per ritirare la causa contro l'Italia per aver ridotto drasticamente i voli. Paola Nania, GR24, Il Sole 24 Ore.